Neon Beat, Neon DB. Non avanguardia, Neon DB. In the city, senti brividi giù nei vicoli. Come la vita che hai portato da dentro, te l'hanno uccisa con un taglio di netto. Ho concetti che non riesco a spiegare, ma con gli effetti diventa tutto normale. Restare rinchiuso dentro, la testa gira, il cervello fermo. Non mi prendi, corri veloce a tuo modo. Sai che perdi e non mi trovi di nuovo dentro te, ma nel buio con nightmare dentro me. Non ci sono avanguardie, è un Oscar di odio nobile. Ho veleno in corpo, se rimango immobile. Sotto presta, stai calmo, respira. C'ho la testa in prima linea. La crisi più famelica è la falsità. Mastico creatività, Beauregard. Plastico reattività, sotto questa attività. L'odio brucia al massimo reattività. Presa occasionalmente solo per la droga. Sembra così famelica eppure ci prova. Già ci ho preso l'antidoto, sono me stesso. Ma adesso non ci sono mai, sono connesso. Ti senti sotto presta come un samurai. Quando ti conoscegli, vediamo che fai. Ci pensi bene, credimi, per 2 secondi. I primi 2 che tieni, poi gli altri che molli. Ma sì che può cambiare, ma giusto il vestito. Non sapevo sta regola e sono stupito. Tu che c'è il mondo in mano eppure ci sputi. Qui becca il pezzo forte come a Lego Movie. Come a Lego Movie. Fire away, shout your name. Crack and play, but still late. Rolling bats, this is it, cause I'm free. So mate, yeah. Far away, shout your name. Crack and play, but still late. Rolling bats, this is it, cause I'm free. So mate, yeah. Paste d'odio, taglio in base. Passa spliff e accendi laser. Tu vedi meglio sotto pillole d'odio. Ho l'effetto contrario anche sopra il podio. Come balli, no? Sembra tutto normale. Sta vita in prima linea locale. Con la testa in festa in un monolocale. La mia crew più stravolta è uno stile animale. Sai che il gioco è più duro, ma allora inizia a inalare. È che il gesto lo usavo in prima elementare. Io con la pressa schiaccio il sistema nervoso centrale. Ghiaccio come la stella polare. Ti frega poco quando il male parla su di te. Capisci bene, inutile mandare su. Ma che mi sono solfato con il salto nel buio. Ma con il dubbio dirò rincontrarmi nel buio. Far away, shout your name. Crack and play, but still late. Rolling bats, this is it, cause I'm free. So late, yeah. Far away, shout your name. Crack and play, but still late. Rolling bats, this is it, cause I'm free. So late, yeah. I'm free, so late, yeah. Neon DB. I'm free, so late, yeah. I'm free, so late, yeah. Neon DB. I'm free, so late.